Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera e domani sera qui a Smart City parleremo di un mercato, di un fenomeno nascente, quello della manutenzione, della riqualificazione fino ad arrivare al potenziamento degli impianti a fonti rinnovabili più datati. Infatti anche fotovoltaico ed eolico subiscono le ingiurie del tempo, mano a mano si accumulano i danni accidentali ed emergono anche degli imprevisti come quello di cui pochissimo si parla e che riguarda la prima generazione di pannelli fotovoltaici, imprevisto che ha un nome: PID, Potential Induced Degradation. E adesso vi spieghiamo che cos'è, anzi ce lo spiega Michele Mencarelli, fondatore e general manager di MC Energy, che appunto si occupa, piccola azienda che si occupa di manutenzione fotovoltaico e microeolico. Buonasera Mencarelli. Buonasera Maurizio. Allora, prima di spiegarci che cos'è questo PID, intanto mi dica nella vostra attività quali sono i problemi più comuni che incontrate. Allora, problematiche delle più disparate, andando dal fulmine che chiaramente va a creare il danno per fulminazione, al roditore che mangiando il cavo di stringa ferma una parte dell'impianto. La stringa è proprio una fila di pannelli collegati fra loro. Esatto, sì? Esatto. Vedetela come un treno dove ci sono tutti i vagoni, quindi il vagone più lento determina la velocità di tutto il treno. E altra problematica molto comune è il fusibile. Banalissima. La protezione della stringa, come dicevamo prima, della fila di pannelli che salta. Questo può portare a volte, soprattutto su impianti più piccoli, dove c'è meno attenzione a vedere, al fatto che l'inverter funziona, ricordiamo che queste file di pannelli per diventare energia elettrica alternata vanno... Scaricano energia nell'inverter che fa questa conversione, esatto, uno vede l'inverter che funziona e dice qui tutto funziona perfettamente, tutto in realtà metà impianto... In realtà potrebbe avere il caso, per esempio, dell'impianto di casa della signora Maria da 6 kW, dove il 50% dell'impianto potrebbe essere fermo e non ci se ne accorge se non andando a fare una verifica strumentale. Senta, allora, arriviamo a questo PID, Potential Induced Degradation, che cos'è? Allora, è un fenomeno di cui se ne è parlato poco, che va soprattutto a verificarsi su pannelli di prima generazione. Questo perché poi, andando avanti con le tecnologie, si è creato un incapsulamento del silicio delle celle che ha risolto il problema. Questo fenomeno si crea perché c'è uno scambio banalmente di elettroni tra il silicio della cella fotovoltaica e il vetro che va a fare, diciamo, da copertura al pannello. Questo scambio di elettroni porta a una degradazione dell'efficienza del pannello. Abbiamo visto in 2-3 anni di funzionamento impianti calare del 30-40%. Mazzate. Quindi è un fenomeno degenerativo sostanzialmente, degenerativo, no? Degenerativo, che fa peggiorare sempre di più, esattamente, degenerativo. Ha una, nella maggior parte dei casi, una risoluzione, diciamo, tecnica, si può andare a riportare a quasi al 100% dell'efficienza dei pannelli andando ad aggiungere delle, chiamiamole, scatole che si vanno a collegare sulle famose stringhe. Si crea un effetto contrario che fa banalmente tornare indietro questi elettroni. Meno male. Parla molto facilmente. Vabbè, insomma, attenzione, se vedete che il vostro impianto fotovoltaico produce stranamente poco e sempre meno, potrebbe, e magari avete dei vecchi pannelli, attenzione, potrebbe trattarsi di questo. Senta, in generale c'è attenzione per la gestione degli impianti? Mi pare di poter dire di no. Di attenzione secondo noi ce n'è poca. Vi faccio velocemente due esempi di... neanche di manutenzione, semplicemente gestione. Cliente tipo che inserisce le misure nel proprio di produzione energia nel proprio account GSE e leggeva le misure su un contatore di scambio Enel invece del contatore di produzione. Questo gli portava ad una perdita di circa il 5% della produzione. Per fare invece un altro esempio su invece i piccoli impianti, il classico impianto della signora Maria di casa, immaginate che con il meccanismo dello scambio sul posto, dove si va ad autoconsumare l'energia e quella in eccesso si va a vendere, ogni anno il produttore, il proprietario, la signora Maria, deve andare sul proprio account e inserire un check, banalmente un sì, voglio vendere la mia energia. chiaramente l'energia viene prodotta, viene immessa in rete, ma se voi non andate, se la signora Maria non va sul proprio portale e non mette questo sì, l'energia non gli viene pagata. E quindi la domanda è retorica, in pratica è come se ti chiedessero: vuoi che ti paghi l'energia che metti in rete? Però la risposta di default su questo portale è impostata a no, quindi se uno non lo fa perde questi soldi. Sono in molti in questa situazione? Ma se consideriamo che tanti proprietari di impianti non hanno neanche la loro password per entrare nel proprio account GSE, immaginiamo quanti siano queste situazioni, penso proprio la maggior parte. Grazie Mencarelli. Saluti Maurizio, grazie a voi.